X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Carlo Calenda, 43 anni, romano, sposato con 4 figli, il primo avuto da giovanissimo. Laurea in giurisprudenza, lavora in Ferrari, poi coordina l'Associazione Italia Futura di Montezemolo, vice ministro dello sviluppo economico, prima con Letta, poi con Renzi, che lo vuole a Bruxelles e di lui dice addirittura più litigioso di me. Nipote del regista Luigi Comencini, da bambino ha fatto una parte nel film Cuore. Nel 2013 si candida con Scelta Civica ma non viene eletto. Dopo lo scandalo che ha portato alle dimissioni del ministro Guidi, l'8 maggio viene nominato ministro, uomo sincero e diretto, apprezzato per la sua onestà intellettuale. Vediamo, ministro Calenda, la copertina dell'Espresso titola "Chiuso per fine industria". Siamo arrivati lì? Buongiorno, no, non siamo arrivati lì, ma certamente abbiamo perso una porzione molto importante della nostra struttura industriale. In 25 anni si sono persi i 2/3 dei posti di lavoro, solo per via dell'innovazione. No, sono due potenti fenomeni. Innovazione e globalizzazione che hanno separato tra vincenti e perdenti. L'altro anno abbiamo fatto il record di export, quindi aziende che vincono, ma tante che perdono e rimangono per strada. Ecco, lei ha lanciato il piano per l'industria 4.0. Queste due realtà stanno insieme? Cioè la sua e quella raccontata dall'Espresso, così come ha detto lei? È l'unico modo per farle stare insieme. L'unico modo per far stare insieme vincenti e perdenti, e non solamente tra le imprese, è quello di aumentare gli investimenti. Non ne vedo un altro. Ecco, ministro Calenda, il DEF per il suo piano Industria 4.0 prevede 20 miliardi in 8 anni, sono quelli che chiedeva lei? No, ma in realtà ne prevede molti di più, perché gli 8 anni sono l'impatto che c'è nella finanza pubblica, ma sono tutti per incentivi nel 2017. Cioè 20 miliardi sono nel 2017? Sono incentivi nel 2017 che però si spostano, seguono le quote di ammortamento del bene e i crediti d'imposta, e quindi hanno un impatto differenziato. Dal punto di vista di finanza pubblica, per questo è una grande ottimizzazione, anticipa il risultato sul PIL, anticipa gli incentivi sugli investimenti al 2017 e poi paga nel tempo. Senta, però Lacamuzzo, il segretario della CGIL, sostiene che serviranno questi soldi solo per le macchine, per i tablet degli imprenditori, insomma proprio la svaluta a zero questa scelta. Ma io sono rimasto veramente molto colpito, perché dentro la frase della Lacamuzzo c'è un disprezzo, io direi antropologico, verso l'imprenditore, come se l'imprenditore non fosse un pezzo di questa società, della nostra società, importantissimo perché crea crescita. Molto diverso dall'atteggiamento che abbiamo visto nella CISL e persino in Epifani, che è stato uno dei promotori di Industria 4.0. Quindi lei considera Lacamuzzo fuori dal mondo sostanzialmente? Io considero questa frase della Lacamuzzo fuori dal mondo, ci riporta epoche storiche che non ci piace rivedere. Ma, allora, per essere chiari, con questi soldi che lei dice che sono tutti qua, torneranno i posti di lavoro? Torneranno gli investimenti, e torneranno quindi i posti di lavoro e soprattutto tornerà una crescita di qualità che è fatta dalla competitività di lungo periodo. Ecco, ma mi spiega qual è l'obiettivo vero principale del suo piano 4.0? Guardi, noi abbiamo dato obiettivi numerici, così sono anche verificabili. Noi pensiamo nel 2017 che gli investimenti potranno aumentare di circa 11 miliardi tra investimenti tecnologici e investimenti in ricerca e innovazione. Questo vuol dire recuperare un bel po' di quello che si è perso dal 2006. E secondo lei questi 11 miliardi di investimenti corrispondono a posti di lavoro? Corrispondono sicuramente a posti di lavoro, perché quando un'azienda ricomincia a investire normalmente non solo porta con sé un pezzo di recupero di posti di lavoro, ma sono posti di lavoro di qualità mediamente superiore. Quindi per lei il DEF va bene così? Per la mia parte va bene così, è sicuramente la parte più rilevante del DEF. Ecco, però molti dicono che invece ci sono soprattutto soldi per dipendenti pubblici, pensionati, che lo sviluppo è poco. Ma non è vero quantitativamente, il dato non è vero, è la manovra più grande di politica industriale che si è fatta negli ultimi molti anni a questa parte, soprattutto fatta in modo diverso, perché sono incentivi fiscali automatici, non ci sono più quelli a bando dove si dovevano chiedere i bolli, le autorizzazioni eccetera, che gli imprenditori non usavano. È automatico. Sono tutto automatico. Senta, quindi chi dice che e premia chi investe. Senta, non si tutti. Premia chi investe, ecco, ma a chi dice che sembra soprattutto manovra elettorale con mance un po' per tutti, abbiamo detto pubblici impiegati, pensionati, eccetera, poi elettorale lo è però. No, secondo me tiene insieme l'equità e la competitività, e per le ragioni che ci siamo detti prima, non esiste una strada di crescita che non tiene insieme anche chi non ce la fa. Questa è la ragione per cui le democrazie occidentali oggi sono in crisi. Ma lei prevede che passerà in Europa? Sì, io prevedo di sì, l'Europa si divertirà e diletterà a giocare con i numeri, le singole misure, eccetera, perché questo è quello quello che fanno ormai, ma alla fine la manovra riduce il deficit rispetto all'anno scorso passerà. E c'è un sacco di investimenti, quindi io credo che passerà. Senta, ma io le faccio una domanda più semplice ancora: in Europa, invece che discutere lo 0,1, lo 0,2 in più per mesi, non sarebbe meglio dire noi sforiamo del 3-4% per fare investimenti produttivi e chi se ne frega delle conseguenze? Ma sa, alla fine secondo me questa cosa è pericolosa per un paese che ha un debito così alto. È anche da dire però che il prossimo anno si aprirà una discussione sul fiscal compact, che è una cosa che non esiste più, non serve più a niente. È l'ultima chance, perché discutere delle regole, stando nelle regole è giusto, dopodiché se la discussione non ha mai termine, bisogna agire. Quindi 2017, fine del fiscal compact. Mi pare che questo sia, che il fiscal compact nei fatti sia già finito. Senta, altri paesi però l'hanno fatto di sforare e non è capitato nulla. Perché a noi avevano un debito inferiore, molto banalmente. Noi paghiamo il peso di avere un debito molto superiore. Francia e Spagna ce l'hanno inferiore. Piano piano stanno arrivando, perché il loro debito cresce molto più del nostro. Noi abbiamo una posizione di responsabilità da tenere. Senta, ministro Calenda, 6 mesi fa qui a Mixer lei mi diceva questo. Senta, cosa le piace di più di Renzi? Il fatto che se tu gli proponi un cambiamento raramente ti dice di no. E questa è una cosa, per uno che viene anche dal mondo delle imprese, molto bella. E di meno? Che certe volte non lo approfondisce a sufficienza prima di dirti sì o no. Cioè, un po' superficiale? No, credo che lui gestisca molte cose in presa diretta. Troppe cose in presa diretta. Ecco, ministro Calenda, qual è l'ultima volta che Renzi ha approfondito poco? Mi stavo per dire quando è che ha approfondito molto. Questo piano l'ho approfondito molto, in fondo è anche un suo è piano. È poco? Non lo so, guardi, io... Per esempio, no, mettiamola così. Me lo dica lei. La personalizzazione della battaglia del sì al referendum è uno dei casi di leggerezza o di grande approfondimento? No, secondo me è uno di casi, di antropologia, perché Renzi è fatto così. Dice io mi assumo, vado alla battaglia, eccetera. Certe volte questa cosa io l'apprezzo molto umanamente, però certe volte è politicamente difficile. Cioè è nel DNA del suo governo è nel DNA del suo governo, del Presidente del Consiglio, e non è stato comune in Italia. Poi dopodiché porta anche degli svantaggi politici. Ecco, Renzi però poi si è pentito, sarà il suo DNA, ma poi si è pentito e ha provato a spiegare che a slegare la riforma della legge elettorale da quella costituzionale. Ha fatto bene, ma intanto non l'ha fatta la proposta. Ma guardi, io sulla questione politica di come costruire la legge elettorale, non è che non lo dico perché ho delle non lo dico perché di queste cose non capisco niente. Delle fesserie. Ma c'è una cosa che lei cambierebbe della legge elettorale? No, guardi, non voglio entrare nel merito, direi fesserie. Ma se vince il no, Renzi si deve dimettere? Ma io non lo so, e questa è una scelta che spetta a lui. Io penso, conoscendolo, che c'ha ben chiaro cosa fare. Non lo dico. Non lo dice, ma lo pensa. Senta, ha senso dire, come dice il ministro Boschi, che se vince il no ci sarà l'apocalisse economica? No, non credo che ci sarà l'apocalisse economica. Però attenzione, un punto: noi non lo sappiamo oggi. La verità è che ogni piccolo segnale, che viene da paesi diversi, questo non è un piccolo segnale, determina grandi crisi. Quindi la realtà è, non lo sappiamo. Io non credo che però vada messa in questo modo la battaglia del referendum. Quindi è sbagliata, insomma, un'esagerazione. Secondo me non va messa così. Non è questo il tema. Il tema è che noi stiamo facendo in Italia, gli unici in Europa, un referendum che decide se andare avanti o no. Tutti gli altri fanno un referendum per decidere se andare indietro, dalla Brexit all'Ungheria all'Olanda. Ecco, io voglio dire, è una bella battaglia, e possiamo dire che per una volta stiamo facendo una bella battaglia, comunque la si pensi. Senta, ministro, ma fare il ponte dello stretto sullo stretto è una priorità per il rilancio dell'economia italiana o è una buttata del premier? No, non è così estremo il discorso. Io penso che il ponte sullo stretto abbia un senso se inserito in un complesso di opere nazionali. Credo che abbia un senso per dare un segno dell'ingegneria italiana, dopodiché non credo che si farà domani mattina. Da condividere, secondo lei? Sì, io l'ho detto, è una scelta da condividere nell'ambito di un piano articolato, altrimenti messa così da sola non ha senso. Un po' una buttata? No, non è una buttata. Non mi faccia dire cose che non voglio dire, perché non le penso. L'ho difesa come scelta. È il senso di poter dire: in Italia si possono fare grandissime opere, ma le si fanno avendo prima completate quelle di prossimità che le rendono utili. Cioè, prima rifacciamo le ferrovie in Sicilia e poi dopo, casomai, facciamo il ponte. Lei 6 mesi fa mi ha detto che una cosa che il suo piano deve assolutamente veramente fare è una politica energetica. È vero, no? Sì, sì. Si comincia quindi? No, si comincia. Un pezzo è già concluso. Noi abbiamo avuto l'approvazione in Europa della nuova norma sugli energivori che riduce il costo dell'energia elettrica per le aziende intensamente energivore, che era bloccata. Stiamo rifacendo la strategia energetica nazionale partendo da quella molto buona fatta da Passera e aggiornandola. Insomma, siamo un pezzo avanti. Sì, però, per le imprese italiane che pagano l'energia più di tutti in Europa, anche se crolla il prezzo del petrolio, per le imprese e per le famiglie il prezzo sale. Perché? No, normalmente in generale è sceso. Ma millimetri. Sì, millimetri, perché noi abbiamo un peso degli oneri cosiddetti, quelli per le rinnovabili, eccetera, che vale un quarto della bolletta. Sì, ma il prezzo è crollato però. Sì, lo so, però il prezzo purtroppo è una variabile che è molto più piccola che in altri paesi. E in più per le aziende, noi abbiamo fatto la scelta opposta della Germania, cioè noi abbiamo scaricato tutti gli oneri sulle imprese, mentre la Germania l'80% l'ha distribuito tra le famiglie, che è una platea molto più alta, e solo il 20% per le imprese. Questa è la considerazione che il paese ha avuto in passato per il manifatturiero. Cioè, proprio poi ci stupiamo perché le aziende chiudono. Certo. Ma per esempio il fatto che l'Enel non dia energia a basso costo è perché fa altro anche? No, non c'entra niente. Cioè l'energia, la concorrenza fra Telecom e Enel sulla banda larga non è un vincolo, non è un limite? No, non c'entra niente. Ma con chi questo la deve fare questa banda larga? Ma lo devono fare gli operatori nelle aree di mercato in concorrenza per far scendere i prezzi. Ma nelle aree non di mercato, Telecom fa, no, tutti quelli che ci sono e che la possono fare nelle aree di mercato. Nelle aree non di mercato la dobbiamo fare noi, perché è una grande infrastruttura, no, dobbiamo fare noi governo, dobbiamo fare i bandi e ovviamente finanziarle e rimanere proprietari dell'infrastruttura. Come stiamo facendo? Senta, ma raccogliere il canone della RAI che adesso è in bolletta, che vantaggio dà all'Enel? All'Enel è relativo, a noi molto, perché dà una certezza delle risorse. Delle risorse, ecco, ma quella del canone in bolletta, che è la prima riforma fiscale da un tempo immemorabile, è fatta a fronte di che cosa? In cambio di questa riforma fiscale gli italiani cosa hanno? Quello dovrebbero avere una grande azienda culturale. Una grande azienda culturale che in un paese che vive di cultura, di turismo, di qualità, di creatività è fondamentale. Ecco, però lei 6 mesi fa mi ha detto che la RAI, per meritarsi tutto il canone, deve fare un piano editoriale chiaro e dettagliato. L'ha fatto? No, deve fare un piano chiaro, dettagliato e ambizioso. Ecco, diciamo chiaro, dettagliato e ambizioso. L'ha fatto? Immagino che lo stia facendo. Immagina, faccia rispondere è passato così. Un anno e 3 mesi. No, da me è passato solo sei mesi. Che comunque sono troppi. Comunque sono troppi. Quindi non potete ancora dire che vi è piaciuto, perché non c'è ancora stato. Beh, io non l'ho visto, non lo so. Poi qualcun altro magari sì. Ma quanto vale il recupero dell'evasione dal canone? Non lo so, bisognerà vedere i dati consuntivati. 300-400 milioni. Secondo me anche qualcosa, magari anche di più. Vediamo, potrebbe magari anche qualcosa di più. A me quello che importa è come viene impiegato. Lo immagino. Ecco, ma in concreto, l'identità del servizio pubblico a oggi della RAI è affidata in gran parte a 3 colossi stranieri che vendono format standard internazionali: la Endemol, Magnolia e Fremantle. Ma ha senso che siano i 3 appaltatori più grandi venditori di format internazionali globalizzati? Ma guardi, a me non è tanto mi importa la nazionalità, è la questione del format. Cioè io dico l'originalità della produzione, la costruzione. Certo, poi è chiaro, ci sono format che vanno usati, eccetera. Sì, però sì, ma l'elemento originale nella produzione, c'è la televisione commerciale, ci deve essere. Io penso che la RAI debba giocare un ruolo straordinario, possa giocare un ruolo straordinario se è originale, creativa, se investe tantissimo in percorsi culturali che aiutano il paese a crescere e aiutano anche l'economia a crescere. Ecco, ma intanto mettere a gara una quota di pubblico e tra pubblico e privato del canone che viene recuperato non potrebbe essere utile per favorire la crescita di questi prodotti di qualità? Guardi, sempre di più la gente vuole pagare per il contenuto e non per il contenitore. E quello che cui dobbiamo essere tutti interessati è che aumenti il contenuto di qualità che viene trasmesso e che viene prodotto. Ecco, da questo punto di vista credo che questa è una discussione che vada fatta. Una strada possibile. È una discussione che va fatta. Vabbè, insomma, stiamo lì vicini. Senta, torniamo all'energia. Che punto caldo. L'Italia possiede il più grande giacimento di quanto petrolio d'Europa e importantissime riserve di gas nell'Adriatico e in Sicilia, ma la produzione di gas è calata in 30 anni da 20 a 7 miliardi di metri cubi. Perché? Ma perché c'è un continuo... Intanto c'è un problema storico. La gente, moltissime persone, pensano oggi che la modernità in qualche modo sia gratis, il fatto di avere il gas, il fatto sia una cosa, e che addirittura c'è un'idealizzazione della società contadina, che in Italia era la povertà. Nello specifico il problema è che qualunque infrastruttura trova una resistenza fortissima, ma lasciamo perdere queste che sono anche con un qualche impatto, ma pensi che oggi cosa sto affrontando io in Puglia per un tubo largo 1,5 metri di diametro che porterebbe il 15% del fabbisogno di gas, un inferno dalla mattina alla sera. Ecco, però il referendum no Triva ha perso, non ha fatto il quorum, qualcosa dovrebbe cambiare. Beh, no? Ma hai bisogno, in questo il referendum è decisivo, la riforma istituzionale in questo è decisiva. Nei rapporti più, fra ancora regioni, più che, regioni e Stato. Ancora regioni. Più che sulle infrastrutture strategiche, ancora più che il bicameralismo. Senta, le sanzioni della Russia sono costate molto all'industria agroalimentare, qualcuno dice 3,5 miliardi di euro, ma l'Europa continua con le sanzioni. Ha senso, hanno senso queste sanzioni? Guardi, hanno senso nella misura in cui noi ci siamo trovati di fronte a una situazione in Ucraina molto difficile. Io dico sempre, la politica commerciale deve terminare dove la politica estera. Un grande paese fa politica estera anche se perde qualche miliardo di euro di esportazione, noi ne esportiamo 414, ricordo. Sì. Dopodiché bisogna capire se sono fruttuosi o no, che è tutto un altro paio di mani. Facciamo... Ma non è che le leviamo perché perdiamo qualche miliardo di euro di export, questo deve essere chiaro. Dice, questa non è una cosa da grande paese. D'accordo, grande paese, allora parliamo di questo. Le sanzioni alla Russia non hanno impedito alla Germania di continuare la costruzione del gasodotto tra la Russia e la Germania. Perché loro sì e noi no? Ma perché loro hanno fatto una cosa abbastanza sveglia. No, hanno fatto una cosa abbastanza sveglia. Nel caso del South Stream, che era il concorrente, c'era un problema di violazione tecnica, posso dire, delle norme europee. Loro l'hanno fatto in modo più sveglio, e su questo bisogna stare molto attenti, perché un pezzo è l'egemonia tedesca, un pezzo è la leggerezza. Ecco. Cioè lei dice che il South Stream, che è quello che riguardava noi, perché aveva come capofila l'ENI, era fatto male? No, sì, era fatto male sicuramente perché era contro le norme europee. Detto questo, e c'era un problema infatti in Bulgaria, detto questo sta tornando via Turkish Stream, che è quello che nasce dalla collaborazione tra Turchia e Russia, che potrà avere delle derivazioni che faranno ritornare quel progetto in una forma diversa, compatibile con la struttura legale europea. Per quanto riguarda Nord Stream, noi abbiamo detto con grande chiarezza e con forza incredibile il Presidente del Consiglio che è una cosa inaccettabile. Ma va avanti. Insomma, in questa Europa guida tedesca non è ora di alzare di molto i toni? Ma noi siamo accusati normalmente di farlo troppo. Ma troppo? Ma i risultati contano? I risultati sono molto difficili perché l'Europa è un processo decisionale complesso e spostarlo è molto difficile. Intanto ci chiedono i soldati in Lettonia per una missione militare di interesse NATO, cioè americana, ma che senso ha? Paghiamo le sanzioni, dobbiamo mantenerle, però dobbiamo mandare i soldati, insomma non è che contiamo tanto. Attenzione, l'interesse NATO non è l'interesse degli americani, l'interesse NATO è noi... Dobbiamo essere molto contenti di avere questa alleanza atlantica ancora in funzione, perché il mondo va a essere molto più complicato. E questo noi semplicemente rispettiamo i nostri obblighi. No, su questo punto sono in disaccordo. Penso che sia una cosa importante starci nella NATO, poi guida anche essere capace di dargli un indirizzo. Noi in molti casi guidiamo le missioni, però è importante rispettare gli obblighi. Senta, a proposito degli Stati Uniti, il confronto tra Clinton e Trump sembra sceso a un livello bassissimo. È il segno di una crisi globale di leadership nei paesi occidentali, sì. Perché quello è il paese che guida l'Occidente. Sì, oggi l'Occidente è in una crisi di identità violentissima, una crisi di identità che nasce dall'effetto che è stato spiazzante di globalizzazione e innovazione tecnologica che ha colpito le classi medie, e noi da questo dobbiamo ripartire riconoscendolo prima di tutto. Ecco, ma Trump, che vinca o che perda, comunque rappresenta questo malessere diffuso sul pianeta dei ceti medi, appunto schiacciati dalla globalizzazione, perché oramai è una globalizzazione senza guida, diciamocelo. Sì, è una globalizzazione senza guida. Tenete presente che 5 su 6 posti di lavoro sono stati persi ancora di più per l'innovazione tecnologica. Sono due fenomeni che vanno insieme e sono molto polarizzati, ecco, e sono poco governati. Infatti lei in passato era favorevole alla globalizzazione. Dove pensa che sia stato l'errore che ha rotto il rapporto tra i popoli e l'elite? No, ma io sono ancora molto favorevole alla globalizzazione. Ha portato più di 1 miliardo di persone fuori dalla povertà. Quello che nel mondo, quello che non sono favorevole e quello che ha rotto il rapporto con l'elite è il fatto che l'abbiamo rappresentata come una cosa cosa a senso unico, positiva per tutti, la fine della storia, senza guidarla, il mondo piatto, questa retorica della terza via, perché è stata una retorica della terza via, ha rovinato il riformismo. Oggi la gente, quando parli di riforme, pensa che ci sia una fregatura dietro, perché c'è stata in passato. Senta, ministro Calenda, lei ha detto che il Brexit sarebbe stato peggio per la Gran Bretagna, lo pensa sempre? Sì, lo penso, avranno ripercussioni molto profonde. Sì. Senta, Romiti, qui a Mixer ha detto che l'Europa così però non può funzionare. Senta cosa mi ha detto ieri, l'altro poi giorno. Abbiamo aggiunto degli altri e poi degli altri, siamo arrivati a 27. Sì. Un errore, Cioè l'errore secondo lei dell'Europa? Di fondo, era proprio di fondo. L'errore di avere fatto questa comunità doveva essere più piccola, più circoscritta, un nucleo che avrebbe, doveva dirigere l'Europa e doveva poi associare, ma in maniera diversa, gli altri paesi. Come un altro errore per la moneta è stata quella di creare la moneta, una moneta a bisogno di uno Stato. Invece i nostri hanno, allora io mi sono trovato in contrasto, dicevano no, la moneta porta automaticamente, no, gli Stati Uniti d'Europa non nascono, prima la moneta e poi gli Stati Uniti, prima si crea gli Stati Uniti d'Europa e poi nasce la cioè, moneta. Cioè prima i popoli e poi, la moneta. Prima i popoli, poi la moneta, ha ragione. Fantastico il senno di poi. L'Europa, a quell'epoca lì, l'Europa dell'allargamento, era un'Europa che stava in un sistema di relazioni internazionali consensuale, multilaterale. Sembrava che l'ONU era figlia di un'altra epoca. Cioè. Oggi noi abbiamo bisogno, sì, di una governance molto più forte. Quindi l'Europa 27 è troppo larga. Secondo me sì, è troppo larga, troppo complicata, troppo farraginosa. Abbiamo bisogno non di governance può decidere forte. L'Europa. Non può decidere. Noi pensi che noi stiamo facendo saltare l'accordo col commerciale col Canada per il Parlamento? La Vallonia, come io avevo detto in tempi non sospetti, spero di non aver portato Yellen. Senta, ma si può dire alla fine, semplificando, che la leadership della Merkel ha fatto bene la Germania e male l'Europa? Sì, si può dire semplificando, è un po' più complesso di così, lo ripeto, è il modello in cui è stato costruito l'Europa, certo, è stata 27... costruita in un momento in cui le reazioni internazionali erano tutt'altro. Va bene, e allora bisogna cambiarlo, bisogna cambiarlo. Renzi dice che lui andrà in Europa e si prenderà tutto quello che serve. Non lo so, spero di sì per lui, ma il punto credo il punto non è prendersi tutto quello che serve all'Italia, è cercare di impostare un ragionamento sull'Europa che la porti ad avere governance forte abbastanza per affrontare un periodo della storia che attraversiamo che sarà difficilissimo, molto duro. Senta, se vince Renzi, secondo lei farà un tagliando al governo? Non lo so, non ho idea. Non ho idea. Non credo che ce l'abbia nessuno. Ma visto da dentro, ne ha bisogno il governo di un tagliando? Ma secondo me, sai, tagliandi sono sempre utili dal punto di vista programmatico. Certamente entriamo in una fase differente del governo. Da questo punto di vista penso che sia utile farli spesso e volentieri. Lo si fa anche in un'azienda. Senta, Carlo De Benedetti dice che siamo a rischio, una visione molto dura, dice che siamo a rischio di un secolo di stagnazione economica, lo pensa anche lei? È molto difficile da dirsi, quello che siamo sicuramente entrando in un secolo molto più duro e difficile, noi siamo oggi in una situazione molto simile a quella degli anni 30, anche se la storia non si ripete mai uguale, dobbiamo trarne delle lezioni perché non possiamo continuare ad affrontarla come se non fosse questa circostanza della appunto, storia. Se non si dice, se non si parte da quello, non si arriva da nessuna parte. Dirlo è fondamentale, bisogna lottare per migliorare, incentivare gli investimenti eccetera, ma allo stesso tempo essere molto chiari sulla gravità della situazione. Cioè, appunto, l'ultima domanda che voglio fare è molto precisa, è questo: se le cose stanno così dure, obiettivamente dure, ma la politica deve dire o no la verità ai cittadini? È un elemento fondamentale, le classi, l'elite ha perso credibilità perché non lo ha fatto, perché ha continuato perché a vendere sogni. Sì, io quando parlo di innovazione tecnologica e intelligenza artificiale non dico mai sarà un Bengodi bellissimo e fa non so Alec Ross, ma dico ma stiamo scherzando, non anche lo sappiamo cosa non lo sarà. Sappiamo anche perché non è detto che una cosa che è nuova è meglio e non lo sappiamo e le preoccupazioni sono realistiche, bisogna gestirlo, quindi bisogna la verità bisogna dirla. Sì. Renzi lo fa secondo me. Secondo me adesso ha preso un passo per cui lo sento ha cominciato molto di più, a dirla. Sì, molto più. Ne sono molto contento. Senta, un'ultimissima domanda, domani qui ci sarà Malagò, si deve mettere il cuore in pace definitivamente per le Olimpiadi. Sì, purtroppo mi pare di sì. Lei. Sì, purtroppo, perché noi siamo un paese che vive quando sta con la testa fuori dall'Italia e riesce a portare il mondo in Italia e le Olimpiadi sono un'occasione per farlo. Non si può dire di una grande sfida internazionale che avviene fra un tot di anni, non ci arriveremo, non lo possiamo fare. È un modo di affrontare però la politica. Però quando l'aveva detto Monti tutti applaudivano, lei era con no, lui. No, sì, ma io non è, no, io no, all'epoca non c'è però dopo. No, io penso che fu un errore anche all'epoca di Monti. Però venne applaudito. Venne applaudito, questo non lo so. Io penso che fu un errore e penso che è un errore oggi, perché noi dobbiamo farcela, dobbiamo provarci, non nascondendo le difficoltà. Grazie, grazie Ministro Calenda, grazie 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms, pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è INAZ, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Mix 24. Allora Mario, che titolo fa il faccia a faccia di Calenda? Lo dico alla romana. Ci provano. Ci provano. Carino. Tu Pietrangelo? Articolato e il ponte. Renzi a rimorchio. Allora, che canzone ci fai sentire? Eccola. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak? Allora, E allora c'era un tipo curioso oggi in metropolitana, e ce n'era anche un altro, però debole. Uno ascoltava l'altro che stava zitto e però mostrava se stesso in una maschera tutta rigata di lacrime. Erano due uomini adulti, padri e forse stanchi, tanto da aiutarsi. Uno ci metteva la forza della debolezza, l'altro la fragilità che è propria dei curiosi. Insomma, ha chiamato Dolly Sander stamattina, ha chiesto proprio questa canzone con una richiesta: posso fare una dedica a Provvidenza? And I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So can't convince your mirror. Il mondo cosa capita oggi? Ma voglio andare a fare due considerazioni con voi, dai. Stiamo sul pezzo. Un po' di musica. Però questo è un pezzo meraviglioso, lo Sky Prince ovviamente. Oh, e allora? Erano Prince e The Revolution un tempo, tra l'altro, non solo Prince. E vabbè, noi parliamo di guerra e non di rivoluzione, non calda ma fredda per ora. A mio avviso, se continuano così diventa anche calda. Mi riferisco ovviamente alle tensioni tra Stati Uniti e Russia. Facciamo un brevissimo recap e poi però voglio sentire più voi che me. Allora, si stanno moltiplicando le occasioni per un incidente, ovviamente. È in corso, come sappiamo tutti, una cyberguerra. La NATO conduce operazioni militari al confine con la Russia nel Baltico. Gli aerei russi a loro volta sorvolano zone pericolose proprio in quell'area. L'Europa e Stati Uniti stanno preparando nuove sanzioni, annunciato ieri la Merkel, contro Mosca per il dossier Siria. Mi pare che si vada tranquillamente, allegramente e irresponsabilmente verso una crisi molto simile a quella dei missili a Cuba nel 1963, con solo una differenza però, che è tutto più veloce, è tutto più incontrollabile e tutto è affidato spesso al caso. Noi l'Italia siamo in mezzo a questo scontro. Io voglio sapere cosa ne pensi tu Giovanni e cosa ne pensa Pietrangelo. Sì, penso che dici una cosa giusta. Tutto è più veloce e incontrollabile. La velocità delle relazioni, delle azioni e delle reazioni, mentre l'abbiamo visto raccontata dalla storia e nei film per la crisi di Cuba, c'è stato il tempo di metabolizzare le azioni e le reazioni, pensare e contropensare. Sappiamo anche il ruolo che ha avuto anche l'Italia in quella vicenda. Cioè, la diplomazia ancora aveva il tempo necessario per esercitare la diplomazia e alla fine si è trovata la soluzione. La velocità non credo che sia amica del bene in questo caso. Pietrangelo, tu cosa ne pensi? 142 militari italiani sono stati comandati di presidiare il confine con la Russia in Lettonia. È qualcosa di concreto che rivela il volto, il ruolo e la condizione dell'Italia. È qualcosa che, dovendo far ridere, in realtà fa pena. Sì, insomma, non approva la manovra della NATO. Uno potrebbe dire, solo un supplemento su questo, Giovanni. Uno potrebbe dire, però noi facciamo parte di un club, lo dico io. Sì, che è quello che diceva Calenda. Facciamo parte di un club fatta la domanda e abbiamo degli obblighi. Allora, a questo punto tu cosa ne pensi? O club sì o club no, insomma. Cioè, questo è il punto. Però nel frattempo abbiamo scoperto che la Germania si sta riarmando. Ma sì, intanto, accidenti, per non saperne leggere né scrivere. E tu stiamo facendo guerra ad una nazione qual è la Russia, che è impegnata sul fronte contro il terrorismo. È un atto di ostilità. Sì. Portare 142 militari italiani al confine con la Russia, e ricordiamolo ai nostri ascoltatori, facciamo la guerra a una nazione che ha una precisa identità spirituale. Oggi, per esempio, su Repubblica si lancia l'allarme perché in una capitale occidentale qual è Parigi, lo skyline viene deturpato per la presenza di una chiesa ortodossa. Sì. Come immaginare che quindi la presenza di una chiesa ortodossa, io voglio dirlo agli ascoltatori, certo, e quindi accompagnata dai crocifissi, sia da considerare una provocazione. Sì, no, questa è una cosa incredibile. Ho visto il servizio sono saltato sulla sedia. Non ci si crede, ma in Francia da questo punto di vista stanno perdendo completamente il controllo. Salamino! Tra 10 cose, caro Giovanni, e voglio sapere finalmente se anche tu puoi fregiarti del titolo coniato da Matteo Renzi di innovatore della TV e del servizio pubblico. Insomma, tra 10 cose, una di sicuro va fuori uso. Dai. Ed è la RAI. 10 cose, appunto. Il programma di varietà scritto da Walter Veltroni ha fatto flop. Costa assai. Secondo Libero pare che costi 1 milione a puntata. E nonostante Flavio Insinna, e nonostante il portiere Buffon che parla di responsabilità, irresponsabilmente la trasmissione va male. Così, dopo il flop di Politics, che è la trasmissione di approfondimento politico di Rai 3 con la X, non ho capito non se X di croce X, o insomma X. Politics, c'è stata la Tibis e Tobis di 10 cose. E dunque, cosa c'è, Giovanni? È il fallimento di una formula. L'inizio di una strada nuova. Ma stanno provando. Strada nuova. Guarda che provare è faticoso. Molto difficile inventare cose nuove. La televisione generalista è matura. No, lo capisco, sono cose nuove, non è male, nuovissime però. Giovanni, infatti hanno un successo stratosferico sui social. Sui social pare che non si veda altro. Questo è il punto. Questa è la divaricazione tra la realtà e i social. Allora, bisognerebbe fare un programma col titolo No Social. Io ti chiedo una cosa. Non ce l'hai fatta. Scusate, Giovanni, lo stesso Matteo Renzi, in fondo, martedì scorso, è partito lancia in resta per tonificare gli ascolti di Politics. E l'ha fatto. Sì, però non è riuscito a vincere il duello. No, Giovanni Floris ha fatto di più. Vabbè, lui ha triplicato gli ascolti di Politics. Quello era il suo mandato. E da dove partì? Da basso. Io queste cose un poco mi confondo. Comunque io mi affido al saggio. Al saggio. E il saggio in questo caso è Dagospia, che dice: il renzismo come malattia infantile del qualunquismo radical chic affonda la RAI. Perché, Giovanni, il famoso rinnovamento del servizio pubblico, che ha un preciso mandato. Qual è il preciso mandato? Quello educativo culturale, dove si è risolto è meritocratico, si è risolto in un noioso catechismo derivato dalla Leopolda, che fu la donata fondativa dell'Happy Regime. Cioè tutto ciò che trionfa nei social, poi nel mare grande della realtà sparisce, anzi fa da sfolla gente, perché dice: che cos'è il servizio pubblico? Dare al pubblico ciò che il pubblico vuole. Ma che cosa vuole il pubblico? Vuole che vengano sistemati i compari, gli amici, i compagni, quelli della comitiva di potere, che è un po' Mario, è un po' come la morte dei giornali, morti perché rappresentano morti. Ciascuno una comacca e non certo una realtà. Domanda che ci dobbiamo in questo senso, a te te l'hanno mai detto innovatore della TV? Innovatore, però no, lo chiamiamo da in poi, lo salutiamo è la così. Qualifica, buongiorno, è la qualifica innovatore. Che Matteo Renzi ha dato di Campo dall'Orto, che è il direttore generale della RAI. Ma io vorrei rubare un dialogo che secondo me chiude, conclude e definisce il tutto. Sentiamo. Al grande Vittorio De Sica nel ruolo del maresciallo, ma ancora di più con Tina Pica. E Giovanni, avevano ragione loro. Ascoltiamo. Fratello, ricordati che devi morire. Fratello, vatti a coricare. Buona coricata a tutti. Non male. Se Mario, c'è ancora la bolla? Sì. Tiro, tiro, re! Insomma, oggi siamo tutti anglo. Va bene, musica. Freddie Mercury. Rapido, rapido. Qualcuno si chiede se noi faremo la nostra Brexit. Se l'è chiesto stamattina Bloomberg. Era interessante, una cosa che non avevo guardato in questi giorni. C'è un flusso di capitali verso l'estero abbastanza consistente in questo periodo e i fattori di incertezza sono due, ovviamente, banche e referendum. Sulle banche siamo ancora, diciamo, alla vendita delle quattro banchette che ancora non si realizza, l'aumento di capitale di MPS che ancora non si è fatto, forse si farà, anzi si farà sicuramente in una via o nell'altra, anche se ho visto che hanno ripreso in mano il piano passera. Sì. Anche questa è abbastanza interessante come cosa. E c'è un aumento delle passività nel quadro dell'eurosistema di Banca Italia, 354 miliardi, pensa che un anno fa erano 118 miliardi. Quindi sono tutti segnali che la Brexit in realtà l'Italia la fa in un'altra maniera. La sta facendo a modo suo. A modo suo, sì. Vediamo cosa succede. Approfondiremo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Mix 24. Rivolgendosi a una società piuttosto che a un pubblico, Chopin poteva mostrarsi qual era: poeta elegiaco, profondo, casto e sognatore. Non aveva bisogno né di stupire né di trascinare. Sin dai primi accordi tra lui e il suo uditorio si è stabilita una stretta comunicativa. A 39 anni, il 17 ottobre del 1849, muore a Parigi Chopin. Inquieto, elegante e discreto, il pianista polacco è un vero genio della musica. A 7 anni già inizia a comporre i suoi primi pezzi e si appassiona alla storia del suo paese. I desideri di libertà di un popolo, quello polacco, diventano la sua fonte di ispirazione. È Parigi il rifugio privilegiato per il pianista e per molti altri profughi polacchi che in Francia trovano asilo. Chopin ci arriva nel 1831, anno dei moti rivoluzionari. Parigi, 12 dicembre 1831. Il vento mi ha spinto qui. Si respira dolcemente, ma forse anche si sospira di più. Parigi è tutto ciò che vuoi. Inserito nei più prestigiosi salotti culturali parigini, è qui che Chopin diventa il più grande artista polacco, il poeta del pianoforte. Il genio di Chopin appare come il più profondo e ricco di sentimenti e di emozioni che sia mai esistito. Egli fa parlare ad un solo strumento il linguaggio dell'infinito. Dunque, per i gialli della storia, una puntata dedicata a Chopin, il pianista che rivoluzionò la musica dell'Ottocento. Adesso per la medicina il professor Roberto Bernabei commenta le più importanti notizie apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA, luglio 2016. Aggiornamento su eutanasia e suicidio assistito. Oggi il suicidio medicalmente assistito è legale in alcuni stati americani come Oregon, Washington, Montana, Vermont e California. è legale in Svizzera e anche in Canada, Colombia, Belgio e Olanda. I ricercatori hanno esaminato le attitudini della popolazione in generale e anche dei medici verso queste pratiche così controverse. Oggi 2/3 degli americani sono in favore del suicidio medicalmente assistito, quando erano solo 1/3 nel 1940. Nell'Europa occidentale il supporto verso il suicidio assistito e l'eutanasia cresce, mentre diminuisce nell'Europa orientale a partire dall'abbattimento del muro di Berlino. L'opposizione è correlata alla fede religiosa. Per quanto riguarda i medici, meno della metà dei medici americani sono in favore di queste pratiche, mentre l'80% dei medici belgi o olandesi, altri due posti dove queste pratiche sono lecite, pensano di poter essere coinvolti in una di queste situazioni, ma sempre l'80% riferisce del timore di dover affrontare lo sconvolgimento emotivo che queste situazioni comportano. Chi sono quelli che si sottopongono a queste pratiche? Prendendo come punto di riferimento l'Oregon, che è evidentemente però è uno stato americano e quindi non è che sia paragonabile alla situazione europea, però ci dà un'idea che il suicidio medicalmente assistito o l'eutanasia coinvolge l'1% delle morti e sono soprattutto uomini bianchi, benestanti, laureati, con il cancro. Non è tanto il dolore, come si sente spesso dire, ma la perdita di gioia di vivere e di dignità che stimolano l'accedere a queste pratiche. Per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ci propone? Oggi una canzone per chi oscilla tra mostrarsi arrabbiato o fingersi modesto. E poi sceglie i romanzi, La guerra e Giudicare. Nicolò Carnesi, Bellissima noia. Trasportare dai ricordi.